2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. La scorsa puntata abbiamo parlato di riconoscimento facciale e dell'intenzione della Commissione europea di proporre una moratoria per alcuni anni all'uso di questi sistemi, fino almeno a quando non ci sarà un ventaglio di regole per evitare le derive che alcuni sottolineano e di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Poche ore dopo, il New York Times ha pubblicato un articolo molto interessante che vi invito ad andare a leggere, in cui si parla di una piccola startup americana chiamata Clearwater AI, quindi Artificial Intelligence, che ha raccolto foto in tutto il mondo dai social network e da altri siti internet dove di una foto c'è anche un nome e un cognome. Ha archiviato tutto, ha archiviato alcuni miliardi di fotografie, di profili, mettendo assieme un servizio usato da circa 600 dipartimenti di polizia negli Stati Uniti per individuare chi ha commesso un crimine. Allora, ci sono vari problemi. Allora, il primo è che chi ha messo la foto sul web, a partire dai social network, non ha sicuramente dato un consenso ad un uso di questo genere. E poi c'è anche un problema di accuratezza del dato. Non è detto che il nome e il cognome associato a quella fotografia, seppur con una serie di controlli si possa arrivare con una certa precisione, perché si fanno controlli incrociati su magari altri siti internet, altri social network, però non è detto che quello sia esattamente il nome. Sia negli Stati Uniti, ma un po' in tutto il mondo, questi sistemi normalmente si basano su archivi che sono gestiti dalle forze dell'ordine o comunque sono controllati dallo Stato. Anche in Italia esiste il SARI, che è un archivio con migliaia di fotografie che sono state fatte dalle forze dell'ordine. Comunque c'è stata anche un'interrogazione parlamentare sull'uso eventuale che in Italia qualcuno potrebbe fare di Clearwater, di questa applicazione, che tra l'altro ha un costo anche abbastanza modesto. Si parla di alcune migliaia di dollari di abbonamento all'anno. Adesso altre notizie selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Il mondo sta diventando sempre più automatico e Airbus ha annunciato di aver effettuato con successo il 18 dicembre una serie di test di decollo automatico con un modernissimo A350-1000, un aereo fantastico. Allora, questo aereo è stato portato sulla pista da due piloti che hanno acceso i motori, dopodiché non hanno fatto più niente. La fase di accelerazione e di decollo è stata effettuata dal computer basandosi sulla sola visione artificiale. Questo programma, questo test rientra in un programma dell'Airbus che si chiama Autonomous Taxi Takeoff and Landing e prevede una serie di test anche di atterraggio automatico entro la prima metà del 2020. Questa settimana è stata costellata dai 100 miliardi di capitalizzazione superati da Tesla, che ne fanno il secondo produttore di auto con maggiore valore dopo Toyota, che invece supera i 200 miliardi. Una cifra che per alcuni è esagerata e del resto i mercati finanziari segnano record dopo record, quindi questa cifra va anche inserita in questo contesto di mercato, ma ci dà sicuramente un suggerimento su come il mercato sta valutando il vantaggio tecnologico dell'azienda, che al momento è anche l'unica fra i grandi produttori ad avere interpretato al meglio l'auto elettrica, che non è solo il veicolo, ma è un sistema integrato con la rete di ricarica. Tesla vince perché ha i supercharger e non solo per tutte le tecnologie che sono collegate al veicolo, e sicuramente anche questo viene premiato dal mercato. Poi la competizione sarà sicuramente molto accesa, quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi anni. Direi che tra l'altro il dibattito su quelli che dicono ma l'auto elettrica sì, l'auto elettrica no, questo dibattito è già stato cancellato dalla realtà. La Cina sta andando fortissima verso l'auto elettrica, quindi ormai non c'è più dibattito. Quello è che sia giusto o sbagliato, forse non vale nemmeno più la pena di raccontarcelo. Quella è la destinazione, dobbiamo accelerare. Non è un caso che Volkswagen abbia detto se non se non ci svegliamo finiamo come la Nokia. E a proposito del fatto che Tesla vince perché ha la rete di supercharger, non è un caso che Porsche, in vista dell'arrivo anche in Italia sul mercato della Taycan, che è l'auto completamente elettrica di Porsche, ha annunciato che entro l'anno verranno attivate 28 stazioni di ricarica rapida presso i centri Porsche, perché questo è un elemento molto importante. Amazon ha comunicato che il proprio servizio musicale Music Unlimited ha raggiunto 55 milioni di clienti nel mondo. Anche questo è un mercato dove c'è una competizione molto forte. Apple Music ha superato la scorsa estate i 60 milioni di abbonati, quindi probabilmente ne ha già aggiunti altri milioni, mentre Spotify può contare su quasi 250 milioni di utenti, ma buona parte utilizzano il servizio gratuitamente, 113 milioni pagano un abbonamento ogni mese. C'è un'altra notizia di cui si è parlato molto, il presunto, perché al momento è ancora presunto, attacco allo smartphone di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. L'origine dell'attacco sarebbe stato un video inviato su WhatsApp dal principe saudita, che conosce Bezos. È stato scritto che si sono scambiati i numeri di telefono durante una cena lo scorso anno. Allora, il principe saudita avrebbe inviato tramite WhatsApp un video al telefono di Bezos che avrebbe innescato un malware che ha inviato all'esterno dati personali di Bezos. Allora, non è ancora chiaro come siano andate le cose. L'Arabia Saudita dice che assolutamente nulla di ciò è accaduto, ma la cosa che raccogliamo noi e che vale la pena di ribadire, stupisce che una persona come Bezos, che tratta informazioni sensibili, utilizzi WhatsApp. Avrà pur qualcuno che gli consiglia, che cura la propria strategia di cyber security. La prima cosa da fare è non utilizzare app deboli come potrebbero essere WhatsApp o comunque tante altre app che possono ogni tanto avere delle vulnerabilità sfruttate anche per estrarre dati. A proposito di vulnerabilità e di problemi di privacy, il garante per la privacy italiano chiede di accendere un faro su TikTok al Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, che si riunirà a Bruxelles alla fine di febbraio. L'autorità italiana dice che sono già arrivate alcune segnalazioni su possibili vulnerabilità che presenta TikTok. Ci sono fondamentalmente due profili di rischio, uno è tecnologico. È stata scoperta recentemente una grave vulnerabilità ora corretta che metteva a rischio i dati degli utenti, ma come dicevo poco fa, non è l'unica TikTok e non sarà sicuramente l'ultima app a subire vulnerabilità, ma c'è il secondo capitolo, cioè la seconda potenziale minaccia è legata alla politica di gestione dei dati messa sotto accusa dal governo americano, che dice TikTok è uno strumento di spionaggio della Cina. E comunque negli Stati Uniti, per in parte questi motivi, una studentessa californiana ha avviato una class action perché accusa la piattaforma social cinese di trasferire i dati personali su server cinesi all'insaputa degli utenti. Comunque negli Stati Uniti questo è un dibattito che arriva fino al Congresso. L'esercito americano ha vietato l'uso di TikTok. Un'ultima notizia riguarda l'Italia. Poste Italiane ha presentato alcune novità che fanno parte di un piano di innovazione tecnologica nel quale il gruppo ha deciso di investire 200 milioni di euro entro il 2022. È stata annunciata una nuova soluzione di pagamento per Poste Pay basata su QR Code. La collaborazione con Sender, che è un sistema per massimizzare la saturazione dei carichi nel trasporto di lungo raggio. Ma soprattutto la cosa che ci fa piacere è stata annunciata la collaborazione con Milkman per le consegne dell'ultimo miglio per e-commerce. Se non sapete chi è Milkman e vi siete persi alcune puntate di 2024, andate nel nostro archivio e cercate Milkman, l'uomo del latte, per capire come la tecnologia può cambiare le consegne dell'ultimo miglio per l'e-commerce, azzeccando precisamente il momento dell'arrivo della merce. È sicuramente molto apprezzabile lo sforzo che Poste sta facendo da alcuni anni per l'innovazione tecnologica, anche se la strada del miglioramento dei servizi è ancora molto lunga, e ci auguriamo che questo programma dia una forte accelerazione. Un'altra notizia che riguarda Poste è che è fra gli investitori della svedese Tink, che in settimana ha annunciato di aver completato un round di investimento da 90 milioni di euro. Quindi Poste è tra gli investitori di questa piattaforma molto interessante di open banking, che consente a banche, istituzioni finanziarie, fintech, startup di creare servizi finanziari basati sui dati. Tra poco sarà con noi Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, per parlare di audio. Da un po' di tempo non ci occupiamo di audio, che fa parte tutti i giorni della nostra vita, soprattutto a noi che facciamo la radio e voi che l'ascoltate la radio. Che cos'è un sistema audio ad oggetti? Lo scopriamo tra poco. Adesso parliamo di Conto, che è una banca fintech B2B francese, Conto con la Q iniziale. Questa settimana ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento da oltre 100 milioni di euro. Questa banca online completamente digitale opera in Francia, ovviamente, in Italia, Spagna e Germania. E io ho fatto due chiacchiere con Mariano Spalletti, che è il country manager per l'Italia di Conto. Ormai tutti come consumatori siamo abituati ad avere l'applicazione della nostra banca direttamente sul telefonino, sullo smartphone, un'applicazione tendenzialmente performante. Questo non avviene nel segmento business, quindi i conti correnti business spesso sono rimasti molto arretrati rispetto ai conti correnti per consumatori privati, quindi già l'interfaccia al proprio computer non è la stessa, è molto più arcaica, quasi mai si ha appunto un'applicazione al passo coi tempi, quindi con quella user experience che ci si aspetterebbe da un applicativo nel 2020. Che cosa offrite voi alle piccole imprese, ai professionisti, alle imprese in generale? Però immagino che il focus sia sulle piccole e medie, giusto? Sì, esattamente. Il nostro focus principale sono piccole e medie imprese, ma da quando abbiamo aperto anche liberi professionisti abbiamo registrato un gran numero di richieste anche da questo segmento di mercato. Allora, in generale, un pochettino come dicevi tu, offriamo innanzitutto un conto corrente business 100% online e possiamo sintetizzare i vantaggi in quattro principali caratteristiche, che sono la prima, sicuramente l'assenza di burocrazia. Dopodiché ti diamo la possibilità di avere un'applicazione, ma anche appunto un applicativo da utilizzare sul tuo computer, che è molto più intuitivo rispetto ai conti correnti tradizionali e che ti dà la possibilità di risparmiare molto tempo grazie appunto all'intuitività di utilizzo. Una terza caratteristica delle funzionalità aggiuntive che sono state sviluppate appositamente per quelle che sono le esigenze del business. Pensiamo a un'impresa o a un team che ha diverse persone che vanno in giro a fare delle spese aziendali. Oggi c'è il problema con le note spese. Invece con Conto tu hai la possibilità di fare in pochi minuti una carta per un tuo collaboratore che non dovrà più anticipare le spese e che poi potrà fare una semplice foto col suo smartphone dall'applicazione Conto allo scontrino per avere lo scontrino direttamente sincronizzato col movimento del conto corrente. E abbiamo anche la possibilità di dare un accesso dedicato al commercialista, che quindi in questo modo si trova l'estratto conto pronto con tutti gli allegati in qualsiasi momento ne dovesse aver bisogno. Ultima caratteristica è il customer service, che è uno dei nostri punti di forza, perché ti diamo la possibilità di avere un'assistenza qualificata in Italia, ovviamente di persone italiane, in un tempo medio inferiore ai 15 minuti. Tutti i servizi tipici necessari ad una piccola media impresa voi offrite? Allora, noi ovviamente offriamo la maggior parte dei servizi principali, no? Quelli che servono nella quotidianità bancaria, che sono i bonifici singoli, i bonifici multipli, l'addebito delle utenze, la possibilità appunto di avere delle carte di debito per andare per i propri dipendenti. Una dei nostri obiettivi del 2020, che segue anche appunto al fundraising che abbiamo appena fatto, quindi abbiamo chiuso un round di investimento di 104 milioni di euro, per un totale di 136 milioni di euro, ci aiuteranno appunto a spingere ancora di più la localizzazione del servizio, che è uno dei nostri obiettivi. Infatti adesso all'inizio del 2020 abbiamo appena annunciato che rilasceremo l'IBAN italiano e la possibilità per le aziende che ne faranno richiesta di avere un POS, quindi per poter anche accettare i pagamenti in ingresso, i pagamenti con carta. Quanto è importante l'educazione, la formazione sui temi della sicurezza digitale? Molto importante, lo diciamo spesso. Beh, prima abbiamo commentato la notizia di Jeff Bezos che usa WhatsApp e se poi verrà confermata questa notizia di cui si parla molto sui media, soprattutto anglosassoni, anche lui un bel corso di cyber security potrebbe farlo. Ed è apprezzabile che Cisco abbia inaugurato un Co-Innovation Center a Milano dedicato proprio ai temi della cyber security e della privacy. Fabio Florio, responsabile del progetto Digitaliani, che è un progetto di Cisco all'interno del quale si inserisce l'inaugurazione di questo Co-Innovation Center, ci ha raccontato di che cosa si tratta. Questo centro è un Co-Innovation Center focalizzato sulla cyber security. Questo è il nostro obiettivo, quindi portare qua soluzioni non solo Cisco ma anche co-sviluppate con i nostri partner, con le startup, con i clienti, per creare appunto delle soluzioni sempre più sicure e che traguardino quelle che sono le sfide che la cyber security ci sta portando. Non solo sarà un centro sulla cyber security, ma sarà anche un centro focalizzato sullo sviluppo di competenze nell'ambito della cyber security, ma non solo, attraverso le Cisco Networking Academy che noi faremo qua al museo. E in terzo luogo avrà anche un social impact, perché noi vogliamo ridare al museo il fatto che ci siamo ospitati, anche fornendo tecnologia che permetterà loro di migliorare le visite di quelli che verranno appunto al museo, dei ragazzi piuttosto che dei turisti o dei visitatori. Perché lo avete fatto in un museo? Certo, è un museo di scienze e di tecnologia, ma è un museo. Sì, perché intanto noi avevamo già una collaborazione col Museo della Scienza e della Tecnologia, perché ci sembrava giusto, parlando di innovazione, calarlo in un ambiente dove l'innovazione è il tema principale, dove ci sono tanti giovani, parlavo di competenze, quindi il nostro obiettivo per esempio è quello di aiutare i ragazzi, le famiglie a capire qual è l'uso consapevole di internet, come proteggersi quando si usano gli strumenti per andare verso internet, oltre che diffondere conoscenze in generale sulla cyber security. Quindi è perché vogliamo legare questo tema di tecnologia e di innovazione anche all'educazione e a chi visita il museo, tipicamente i giovani, le scuole e gli studenti. Per chi non vi conosce benissimo, che cosa c'entrate voi con la cyber security? Sì. Certo, c'entrate, però spiegamelo. Sì, c'entriamo perché, per chi non lo sapesse, Cisco è il primo fornitore mondiale di soluzioni di cyber security. Noi ogni giorno blocchiamo 20 miliardi di attacchi al giorno grazie alle nostre tecnologie, alle nostre reti e a un nostro gruppo interno che si chiama Talos, che è un gruppo di ricerca e sviluppo che prende tutte queste informazioni che derivano dagli attacchi e le restituisce ai nostri clienti che usano i nostri sistemi per poter far sì che loro siano pronti a respingere, a bloccare e a rimediare gli attacchi che subiscono. Sempre per spiegare completamente quello che fate, voi non siete una società di cyber security, ma la cyber security fa parte del vostro business perché? Perché noi abbiamo tutta una serie di soluzioni, di prodotti che sono per la cyber security, e cioè dai classici firewall, anti-malware, eccetera, a soluzioni che sono integrate nei nostri sistemi di rete, quindi nei router, negli switch, piuttosto che negli access point wifi, eccetera, ma soprattutto quello che diciamo noi, bisogna lavorare sull'architettura della sicurezza, perché non si può più affrontare la sicurezza con un singolo prodotto, un singolo device, ma affrontata a livello architetturale by design quando vengono realizzate per esempio delle nuove soluzioni, delle nuove reti o delle nuove applicazioni. Adesso parliamo di audio. Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale di tecnologia dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Prima di parlare di audio, di sistemi audio ad oggetti, che è uno dei temi di questa puntata, volevo partire da una notizia di pochi giorni fa che riguarda Sonos. Sono tra i diffusori audio più popolari, ne abbiamo parlato soprattutto per i sistemi multi-room, visto che si connettono tra di loro in wifi e creano ad esempio in una casa una rete multistanza. Qual è la notizia di questa settimana che sta facendo discutere? Sì, diciamo che Sonos ci aveva abituati a garantire la continuità dei propri prodotti, anche quelli più vecchi, all'interno del proprio ecosistema, e quindi di fatto venivano aggiunti nuovi prodotti cambiata moltissimo negli anni l'app con nuove funzionalità, ma tutti i prodotti sono stati comunque tenuti aggiornati. Si sapeva che una cosa di questo tipo non poteva durare all'infinito ed è arrivata per alcuni però come un fulmine a ciel sereno la notizia che a maggio del 2020 terminerà il supporto software, un po' come succede, non so, per Windows, Windows sì, 7 sì. Che terminate il supporto, ecco, terminerà il supporto per alcuni dei primi prodotti, diciamo, più diffusi. A parte delle cose che ormai sono un po' di archeologia, cito le Play 5 di prima generazione e il Sonos Connect e Connect Amp, quindi quelli che non hanno lo speaker ma si collegano a impianti esistenti o casse esistenti, prodotti fino al 2015 di fatto, quindi 4-5 anni fa, insomma, prodotti di... Sì, diciamo che Connect e Connect Amp sono stati prodotti anche dopo, ma nelle nuove release c'era memoria e processore sufficiente per poter garantire la continuità, mentre questi prodotti saranno in qualche modo non abbandonati, perché comunque Sonos promette di dare comunque degli aggiornamenti, dei bug fix fin dove la potenza del processore e la memoria lo renderà disponibile, ma non verrà più garantito il pieno funzionamento con tutte le funzioni, quindi non ci saranno più aggiornamenti maggiori, il che significa che a maggio del 2020 questi speaker continueranno a funzionare come prima. Questo è una cosa chiara. Però man mano che dovesse raggiungersi nuove funzioni, oppure che le app collegate, perché viviamo in un ecosistema tutto interconnesso, Sonos si interconnette a più di 100 servizi, man mano che questi servizi dovessero cambiare le modalità di ingaggio e di interazione, le API per interagire con l'app richiedendo magari maggiore potenza di calcolo, ecco, magari qualche servizio potrebbe incominciare a non andare più, e magari la vecchia app potrebbe risultare non più compatibile con i nuovi sistemi operativi che dovessero uscire nel frattempo degli smartphone, e quindi, come abbiamo visto per esempio WhatsApp sparire da alcuni smartphone, ecco, così potrebbe capitare anche con l'app di Sonos sui nuovi sistemi operativi, la vecchia app di Sonos, quindi quella compatibile con questi speaker, con i vecchi speaker. Quindi inizia un ciclo di declino di questi prodotti, e il che colpisce alcuni, anche i nostri lettori che hanno osservato, uno dice sì, ma io ho un giradischi Torrens di 40 anni, funzionava 40 anni fa, funziona ancora adesso, se lo tengo manutenuto funzionerà probabilmente per i prossimi 40 anni. E come, cosa succede? Ragazzi, questo è il mondo interconnesso. Questo è il mondo interconnesso. Nell'interconnessione, tanto non uno a uno, ma molti a molti, come ormai è l'interconnessione, se qualche nodo viene meno, casca il principio di interconnessione. I sistemi sono strutturalmente più vulnerabili al tempo, perché basta che un anello di questa catena diventi obsoleto e diventa obsoleta tutta la catena, e questo purtroppo è anche se va detto a onore del vero che questi prodotti Sonos nascono addirittura prima dello smartphone. Cioè nascevano comandati da un telecomando Sonos che faceva quello che fa adesso lo smartphone, quindi nascono proprio in un'era tecnologica diversa, precedente. E forse più che lamentarsi che questi prodotti vadano in pensione, bisognerebbe essere contenti che sono durati fino adesso. Molti altri prodotti non hanno fatto altrettanto. Penso per esempio, lo diciamo spesso, alle Smart TV, che dopo 2 anni non vengono più aggiornate, quindi altro che 15 anni, cioè parliamo di 2 anni. Sì, sì. Tra gli argomenti di cui vorremmo parlare, quando parleremo di TV, parleremo anche di questo, cioè dell'importanza sempre più elevata del sistema operativo nei televisori. Fino a pochi anni fa uno comprava il televisore per altro, oggi invece bisogna tenere in considerazione anche il sistema operativo. Tornando ai Sonos, che ricordiamo sono tra i più popolari diffusori audio, casse audio che si connettono alla rete wifi, e in casa ci si può costruire una rete multistanza. È il marchio leader senza dubbio in tutto il mondo. Però nella parte audio di diffusione continuano a funzionare, ad andare, cioè se uno gli attacca, come dire, un'uscita audio, possono andare avanti o no? Beh sì, assolutamente, andranno avanti. I percorsi non li conosce probabilmente neanche Sonos, non sa, però probabilmente Sonos ha anche nel cassetto delle nuove funzionalità che vuole lanciare. Probabilmente queste nuove funzionalità non sarebbero supportate da questi hardware e quindi ha dovuto comunicare, voglio dire, anche in maniera molto corretta, forse anche fin troppo terroristica nei confronti degli utenti. È arrivata una mail in questi giorni molto preoccupante: non verranno più supportati i tuoi prodotti. Insomma, non c'è da preoccuparsi in maniera così immediata. Certo che se uno ha un prodotto di quelli che diventano obsoleti, l'intero sistema Sonos di casa non verrà aggiornato nelle nuove release software, quindi restano fermi non soltanto i vecchi prodotti ma anche eventuali altri prodotti nuovi. Chi ha Sonos normalmente ha più di un diffusore perché copre più stanze e quindi magari ha un diffusore, una Play 5 vecchia, che tiene in qualche modo tutto il sistema bloccato a una vecchia release software. Quindi attendere, bisognerà entrare nell'ordine di idee di sostituire quel prodotto se si vuole tenere il sistema Sonos. Sonos ha previsto un programma di trade-up per cui in qualche modo fa uno sconto del 30% a chi acquista un prodotto sostitutivo e teleblocca quello che viene sostituito, quindi lo trasforma in un pezzo di plastica senza più nessuna utilità e consiglia, quindi consiglia ovviamente, di conferirlo poi a un sistema di smaltimento autorizzato, certo, quindi RAE, certo, dove, ripeto, non ci sono danni per l'ambiente, l'abbiamo detto più volte, perché il sistema RAE, quello ufficiale, recupera praticamente la quasi totalità, sì, dei materiali. Sì, e questo l'abbiamo raccontato perché rientra in quelle notizie che ci danno un po' il senso di come la tecnologia funziona con i pro e i contro. Questo è forse un aspetto negativo della rivoluzione che commentiamo sempre a 2024 e voi su dday.it. Dunque, noi oggi vogliamo invece parlare, prendendo spunto anche da alcune novità che sono state presentate negli ultimi mesi o nelle ultime settimane, penso anche al Consumer Electronics Show, dove tu sei stato all'inizio dell'anno, di come si sta trasformando l'audio, cioè il modo in cui noi possiamo ascoltare il suono in generale, la musica, i commenti sonori di un film, eccetera, eccetera. Fino a poco tempo fa eravamo abituati all'audio multicanale. All'audio a canali, diciamo così. Sì. Quindi mono. Che non è multicanale, cioè è uno. È un canale. Okay. Il famosissimo, usatissimo stereo con due canali che permette di ricostruire cosiddetta immagine stereofonica. Quindi vediamo davanti a noi, riusciamo a collocare nello spazio più o meno gli oggetti. Gli oggetti sonori, quindi il nostro stage cosiddetto virtuale. La codifica multicanale, inteso soprattutto come codifica 5.1, quindi 5 canali principali più un subwoofer, che ci colloca i suoni attorno a noi, quindi anche coi canali posteriori attorno a noi, ma su un piano, perché gli speaker sono occhio e croce tutti alla stessa altezza, quindi destra, sinistra, davanti e dietro, ma non sopra o sotto. E poi delle derivazioni del 5.1 che per qualcuno forse anche non con tutti i torti sono addirittura delle evoluzioni eccessive verso il 7.1, 9, 11 canali, .2 con due subwoofer e così via nell'estensione delle codifiche multicanale. Ogni diffusore, cosiddette codifiche a canali discreti, dove si chiamano discreti non perché non siano ottimi, ma discreti perché sono canali completamente separati gli uni dagli altri. Quindi io posso potenzialmente codificare un file multicanale mettendo, che ne so, una voce sulla cassa di destra, una tromba sulla cassa di sinistra, un pianoforte sul posteriore, fare un pasticcio di questo tipo. I canali sono completamente separati. Questo significa che all'aumentare del numero di canali aumenta proporzionalmente anche la banda che occupo, quindi lo spazio che occupo per codificare questi canali. Motivo per cui devo dire il sistema di sia sul fronte streaming che sul fronte dischi che sul fronte televisivo si è assestato su codifiche che arrivano a 5.1 canali. E nella migliore delle ipotesi. Sì, sì. Ecco, nella migliore delle ipotesi, sì. Quando si parla di multicanale, le codifiche a canali superiori sono appannaggio esclusivamente di alcuni Blu-ray, tanto per intenderci, ma poi si è capito che forse piuttosto che aggiungere canali in più era meglio avere codifiche non compresse o compresse senza perdita, e quindi poi magari abbiamo visto il 5.1 non compresso, sì, che sicuramente dà soddisfazioni maggiori, ma siamo andati oltre, si sta andando oltre. Qualcuno avrà sentito parlare, non fosse altro al cinema, ma anche in tanti apparecchi domestici, di Dolby Atmos. E qualcuno ha pensato che Dolby Atmos fosse l'evoluzione di quel mondo, di un Dolby Digital, un Dolby, sì, Digital un po' più bello. Sì, sì. Ecco, no, è proprio una codifica completamente diversa. Non è una codifica multicanale, ma una codifica cosiddetta a oggetti. Che cosa significa codifica oggetti? Esatto. Significa che praticamente vengono definiti proprio degli oggetti sonori, quindi come fossero delle clip audio, e quindi, non so, scomponiamo per semplicità un brano musicale o una colonna sonora di un film in tutti i suoi elementi, i violini sotto, la tromba, il parlato, la tastiera, il pianoforte e così via. Ogni elemento come fosse un oggetto, e questo oggetto ha una definizione di collocazione nello spazio, un vettore. Quindi praticamente non ha soltanto la sua intensità, quindi il suo volume, diciamo così, ma anche la sua posizione attorno all'ascoltatore. È una posizione teorica. Sì, ok, certo. Quindi sarebbe il desiderata dell'autore, cioè il creatore di quel contenuto colloca nello spazio tridimensionale, quindi anche sopra, sotto, eccetera eccetera, la sorgente sonora per creare un effetto creativo che lui ritiene più coinvolgente. In questo modo io posso fare, diciamo, una codifica che occupa solo lo spazio degli oggetti, quindi non quei 6-5 canali posizionati come da specifiche, quindi due canali frontali a 60 gradi, i canali posteriori a 30 gradi sul posteriore, eccetera, eccetera. Ma io posso collocare gli oggetti sonori dove voglio nello spazio e occupo lo spazio di dati solo per quegli oggetti sonori. Quindi occupo meno spazio. Alla fine sì, perché più delle volte magari il canale posteriore non sta facendo niente o sta facendo poco, certo. Quindi io occupo tutta quella banda intera per un segnale quasi silenzioso. Ma al di là della quantità di dati che mi servono per trasmettere questa colonna sonora, che sia suono dedicato alla musica o che sia parlato, rumori di un film, qualsiasi altra cosa, il risultato per me che ascolto è più bello? Allora, parliamo per esempio di cinema. Ecco. Al cinema, nelle sale Dolby Atmos, sì, controllare prima di andare al cinema com'è equipaggiata la sala, perché magari lo stesso film è dato anche nello stesso multiplex in due sale diverse, una Atmos e una no. Sì. Ovviamente sì, sì, sì, se c'è meglio andare in quella, sì, Atmos. Faccio una parentesi, ricordiamo che Atmos non è una tecnologia dell'altro ieri, è una tecnologia che ha già qualche anno, 7-8 anni, ma nonostante ciò, da poco tempo le sale cinematografiche, il mondo in generale dei prodotti, poi vediamo di cosa stiamo parlando, offre soluzioni Atmos. Ci ha messo un po' di tempo per diffondersi. Ci ha messo il tempo che normalmente ci mettono gli esercenti cinematografici ad accorgersi delle nuove tecnologie. Non sono tra le categorie più progressiste dal punto di vista tecnologico. Ecco. Alcuni un pochino più illuminati fanno dell'innovazione tecnologica un motivo per farsi scegliere, sì, e noi normalmente, se possiamo, li scegliamo, certo. Ovviamente ricordiamo sempre l'Arcadia a Melzo vicino a Milano. L'Arcadia a Melzo ha fatto proprio una missione dell'alta, sì, sì, qualità sia di proiezione, dimensione schermo, che di riproduzione audio. Ha le sale Atmos da tempo. Certo, infatti mi ha scritto recentemente un ascoltatore che ha detto, visto che noi abbiamo parlato anni fa, ha detto, dopo tanto tempo ho fatto 250 km per andare a vedere un film all'Arcadia Melzo, grazie. ho detto tutto. Vabbè. Tornando, qual è la mia esperienza? Se io vado in una sala Atmos, per esempio, guardo in alto, troverò che il soffitto del cinema è costellato di diffusori, chi più, chi meno. Però, per esempio, ho dei diffusori superiori. Non li possiamo chiamare surround. Cioè, sì, surround perché ci stanno attorno, certo. Ma stanno sopra. Potenzialmente potrebbero anche essercene sotto, non ho visto sale di questo tipo. In realtà Dolby Atmos non definisce in maniera blindata quanti e dove ci devono essere questi diffusori. Più vado all'assurdo, se io avessi delle pareti totalmente ricoperte di diffusori su tutto il cinema, potrei fare un Dolby Atmos con una riproduzione molto precisa degli oggetti Dolby Atmos, perché potrei attivare i singoli diffusori addirittura per mimare la direzione in maniera precisissima. Certo, se c'è una folla di persone, ogni diffusore è una fonte dipende dal numero di oggetti che ho e questi oggetti vengono gestiti. È chiaro che nell'istante in cui io non ho una superficie completamente ricoperta di diffusori, ma ne ho alcuni, una matrice, diciamo, di diffusori di canali, il sistema Dolby Atmos penserà lui a indirizzare su questi canali gli oggetti, adesso lo sto semplificando un po' ovviamente, ma gli oggetti per mimare al meglio le intenzioni del creatore. Quindi noi sentiremo dei suoni provenire dall'alto perché il creatore, quindi chi ha composto, per esempio, chi ha fatto il mix di quel film, ha deciso che l'audio debba venire, un elicottero che scende dall'alto, l'audio lo devo sentire da sopra e arriverà effettivamente da sopra. Quindi è chiaro che ci sono poi sale che sono compatibili Atmos, ma possono essere più o meno sofisticate in termini di diffusori. Diciamo che Atmos, cioè, o meglio, le codifiche a oggetti, separano il principio del mix, quindi della codifica iniziale, dal principio della riproduzione. Quindi, mentre in Dolby Digital chi faceva il mix doveva distribuire i suoi suoni sui 5 canali, e lo faceva arbitrariamente, anche adesso, anche con le codifiche oggetti arbitrario, però lo faceva in qualche modo accontentandosi di quei 5 canali e sperando che poi i 5 canali ci fossero. Fossero posizionati in quelle posizioni, perché se io li mettevo in maniera diversa, per esempio, invece di metterli dietro i canali posteriori li metto a fianco, il risultato sarà diverso. Col Dolby Atmos invece il creatore definisce precisamente cosa vuole, e poi ogni sistema, e qui veniamo anche ai sistemi domestici, riprodurrà quell'intento al meglio di come può, secondo la complessità del sistema, il che permette, ed era un'esigenza molto sentita anche dal mercato, di avere sistemi Dolby Atmos ancora multicanale, molto complessi, quindi multicassa, diciamo così, multicomplesse, avere sistemi Dolby Atmos più semplici, o comunque sistemi codifica oggetti più semplici, quindi le soundbar. Si sente parlare tanto di soundbar Dolby Atmos. Beh, le soundbar Dolby Atmos non possono essere semplicemente delle soundbar con uno speaker dentro e finisce lì, perché non sarebbe niente altro. Deve avere più speaker all'interno dello stesso telaio, alcuni probabilmente devono sparare verso l'alto, perché in modo tale che il suono rimbalzi sul soffitto e torni giù. Però il fatto di avere, per esempio, un layout già previsto, perché il produttore ha già progettato questa soundbar con tutti gli speaker più o meno al posto giusto per una riflessione normale, una stanza normale, e poi ci sono anche quelli ovviamente che hanno il sistema di calibrazione, che è importantissimo in questo caso. Ecco, questo permette di cercare di riprodurre, ripeto, cercare di riprodurre, non sto dicendo che con una soundbar risolvi il problema, l'audio del cinema, no. Sicuramente migliore quello del TV, che Dolby Atmos non è, e che ha due speaker magari rivolti verso il posteriore del TV, però si riesce a mimare al meglio l'intento del creatore. È chiaro che se la soundbar non è Dolby Atmos, non si usa quel tipo di codifica Dolby Atmos, eccetera, eccetera. Certo. Quindi, poi devono anche essere i film che io vedo in Dolby Atmos. Certo, c'è anche quel discorso lì. Sì, quindi questo è per spiegare, insomma, in maniera più facile, spero che si sia capita, più facile possibile, che cosa comporta come vantaggi una codifica audio a oggetti. Non solo. Quindi diciamo che il risultato finale per me, ascoltatore, è un audio più bello, più gradevole, più veritiero? È un audio, diciamo, è un set di strumenti creativi più ampio per il creatore, che poi si rispecchia in una possibilità di avere una riproduzione audio più ricca. Un'immagine sonora più perché bella. Perché parte anche da una maggiore quantità di informazioni che in qualche modo il creatore ha potuto mettere dentro. Ma le codifiche oggetti, tanto che si sperimentano, il mondo televisivo dei broadcaster è un po' lento a evolversi molte volte, ma è tempo che si prospettano soluzioni molto interessanti, anche col Dolby Atmos, cioè o con altre codifiche a oggetti. Per esempio, avere diversi oggetti sonori in una trasmissione audio e poter decidere di mixare i volumi. Per esempio, pensiamo a una partita di calcio, io posso avere gli effetti dello stadio e il commento come fossero, sono due oggetti separati, e posso, per esempio, modificare il volume di uno rispetto all'altro. Sono tutte applicazioni già mostrate anni fa a livello sperimentale, che però non ci sono, non ancora implementate sulle trasmissioni regolari, ma che volendo si potrebbero fare. Perché non ancora implementate le trasmissioni regolari? Perché le trasmissioni regolari sono ancora a canali. E quindi bisognerebbe fare una sorta di canale stereo dove sul destro c'è il commento, sul sinistro c'è l'audio dello stadio, e poi andrebbero sentiti cambiando left and right, insomma, non funziona così. Sì. Senti, Sony 360, che anche al consumer electronic 360 Reality Audio. Il Sony ha proposto al mercato da, direi, quasi da più di un anno, ecco, una codifica audio a oggetti pensata fondamentalmente per il mondo audio. Musica. Sì, musica. Mentre Dolby è più cinema. Dolby storicamente è sempre più legata al cinema, anche perché stanno in California. Sì, ma anche perché poi il cinema è più propenso per anche numero di opere che vengono fatte a pagare, diciamo, delle royalty per l'utilizzo di un formato audio. Cosa diversa è invece la musica, dove la produzione musicale è numericamente molto più elevata, si fanno molte più canzoni che film, tanto per intenderci, e dove la royalty Dolby è un po' troppo pesante. Quindi Sony ha fatto questo formato a oggetti, quindi analogo nella filosofia al Dolby Atmos, però che vuole indirizzare soprattutto per la musica, non l'ha proposto per il cinema, e quindi consumer, quindi destinato non alle sale cinematografiche ma destinato agli utenti finali, e con un target specifico sulla musica. Sappiamo che Sony, all'interno del gruppo Sony, ha Sony Music, quindi la casa discografica, e ha incominciato a mettere a esposizione di alcuni propri artisti questa nuova tavolozza di strumenti creativi, quindi la possibilità di posizionare tutti gli strumenti nello spazio, analogamente a quello che abbiamo detto per il Dolby Atmos, e quindi permettere una riproduzione che ricrei questa spazialità, no? E quindi da qui il nome Reality Audio, quindi il fatto di ricostruire uno stage reale, partendo ovviamente dalla cosa più facile. Qualcuno potrebbe dire sembra la più difficile, invece è la più facile: le cuffie. Cioè questi file codificati con il 360 Reality Audio, che ricordo perché non l'ho detto, è un formato aperto, cioè Sony l'ha offerto al mercato senza royalty, quindi chiunque lo può adottare. Praticamente sono già disponibili questi file in qualche modo, per esempio su Tidal, sul sistema servizio di streaming audio Tidal. E alcuni, ovviamente, non è che tutto il catalogo è 360 Reality Audio, chi ha fatto questi brani, e si possono già ascoltare in cuffia. Con delle cuffie Sony è meglio, cioè funziona oggettivamente meglio perché sono già pensate per questo scopo. E cioè, come fa a mettermi gli oggetti nello spazio se io sto ascoltando con la cuffia? In realtà con la codifica, quindi il player 360 Reality Audio, quindi il player Tidal in questo caso, applica tutte le modifiche, fammi dire, alle fasi degli oggetti sonori che riproduce con un DSP, quindi per via elettronica, creando l'illusione al nostro sistema percettivo di un suono che arriva da sopra, da dietro, da davanti. È proprio un trattamento classico, no? Di posizionamento digitale del suono, come si può ascoltare anche l'audio multicanale in cuffia con un DSP, appunto. Però la differenza è che in questo caso gli oggetti possono essere collocati veramente ovunque, e Sony è convinta che questo potrebbe diventare uno, ovviamente magari non è convinta che possa diventare il sistema prevalente di riproduzione audio, ma uno dei sistemi di riproduzione audio. A Las Vegas quest'anno la stessa Sony ha presentato due prototipi, non sono prodotti finiti, ma una soundbar che tra l'altro, oltre ad essere Dolby Atmos, è anche compatibile col 360 Reality Audio, e addirittura uno speaker, un barilotto di quelli speaker classici come i Sonos di cui abbiamo parlato prima, per intenderci, anch'esso compatibile o diciamo sedicente tale con l'audio 360 di Sony, che devo dire abbiamo ascoltato sia la soundbar che lo speaker. La soundbar ci ha stupito anche abbastanza, perché se si è abbastanza in mezzo, ovviamente, ecco, la cuffia ha questo vantaggio, sei sempre nella posizione ideale. Beh, certo. Quindi è facile. Sì. Con gli speaker è più difficile, con le sound è più difficile, perché il sweet spot, il posto dove si sente veramente l'effetto giusto, è normalmente abbastanza concentrato al centro, c'è uno, eccetera eccetera. Due innamorati molto vicini, insomma. Però devo dire che l'effetto effettivamente si sente. Sullo speaker l'effetto è un po' diverso. Quello che noi abbiamo sentito effettivamente è una maggiore uniformità in tutta la stanza di quello che si sente, cioè spostandosi nella stanza non cambia la percezione. Però non abbiamo, è un prototipo, sentito questo effetto di posizionamento. Devo dire che anche la demo è stata fatta in fiera, purtroppo con una confusione che non permette di dare giudizi finali. Ma qui il concetto, la nostra volontà oggi era solo non tanto quella di promuovere i sistemi oggetti, qui non ci viene tra l'altro in tasca assolutamente nulla, ma spiegare che esistono questi sistemi oggetti, che in che rapporto sono con le codifiche audio multicanale tradizionali. Sì, ti faccio una domanda su la reale esigenza per i consumatori di questi sistemi, e parto dal video. Se una persona normale la metti davanti a due televisori, uno in definizione standard, cioè la vecchia definizione, dove si vede oggettivamente abbastanza male, e un bel display dove si vede in alta definizione, tutti percepiscono la differenza e si vede benissimo, molto molto bello. È vero. Già se lo metti davanti a un 4K, uno dice, vabbè, sì, un po' meglio, ma non è che mi cambia molto la vita. Non è che questi sistemi, parlando dell'audio, sono un po' meglio di un buono stereo, e quindi ti migliorano talmente poco la vita che uno dice, vabbè, ma sai cosa c'è, non è che mi interessa più di tanto, cioè che la leva per il consumatore sia poco interessante. Ma distinguerei le codifiche dai diffusori o dai prodotti che scegliamo per diffondere l'audio. Lo scenario futuro è quello in cui decideremo magari di comprare una soundbar, e questa soundbar sarà compatibile con Dolby Atmos e magari con 360 Reality Audio. Quindi qualsiasi cosa poi arrivi al TV o all'audio, questo lo riprodurrà al massimo delle sue potenzialità. E quindi questo è la fine delle codifiche. Non ci sarà una soundbar solo Dolby Atmos, che accetta solo Dolby Atmos, se no sentiamo con gli speaker del TV. Quindi da questo punto di vista sarà, come dire, un'aggiunta, un nice to have, come gli americani, quindi ci piacerà averlo, ma non sarà assolutamente indispensabile. E cosa diversa è la soundbar rispetto al TV. Cioè i TV oramai hanno una qualità audio talmente deprimente molte volte, che l'affiancamento di una soundbar diventa, se non indispensabile, decisamente molto consigliato. Come se il TV fosse diventato un apparecchio a due telai. Quindi compri il display e poi compri l'audio, che può anche essere di una marca diversa, perché no, e li metti assieme. C'è un audio di servizio nel TV, il più delle volte parlo di TV di gamma media, ecco, un audio che possiamo considerare di servizio. Sento il telegiornale, magari neanche benissimo, ma poco di più. Devo dire che c'è anche un pochino di scarsa sensibilità dell'utenza. Io sono convinto che se prendo due TV con lo stesso pannello, uno con una soundbar e uno senza, e faccio vedere la stessa immagine, stesso film, nella stessa codifica identica, probabilmente gli utenti mi diranno che si vede meglio quello che si sente meglio, ovvero quello che ha la soundbar. Loro diranno che si vede meglio. In realtà si sente meglio, perché il video sarebbe identico, e la percezione si somma, ma si sa, l'occhio è un senso che tende a prevalere sull'orecchio, e quindi da questo punto di vista mettiamo un po' tutto insieme e diciamo che quel TV si vede meglio. Non a caso c'è una sorta, devo registrarlo proprio anche da quello che abbiamo visto a Las Vegas, una sorta di riflusso sull'approccio all'audio da parte dei produttori di TV, perlomeno sulle fasce alte di prodotto. Quindi sta ritornando una maggiore attenzione alla qualità audio nei TV. Per fortuna, purtroppo legata soltanto ai prodotti di prezzo alto. Poi la competizione vera si fa sui prodotti di gamma media, che hanno un prezzo medio che precipita, soprattutto in Italia, dove il prezzo medio, in Italia il prezzo medio di acquisto dei TV è di 370 euro circa, e contro quello che succede in Germania o in Olanda, dove il prezzo medio di acquisto dei TV è doppio. Pazzesco. Siamo a 700 e rotti euro. Cioè, perché sono, i consumatori sono più attenti alla qualità, prodotti di qualità. Prodotti, i consumatori sono, qualcuno dirà, sono anche più ricchi, questo ci può anche stare, lo definiranno gli economisti, non io. Sicuramente c'è anche una maggiore attenzione ai prodotti di qualità e delle scelte forse più durature. Senti, a proposito di televisori di fascia alta più attenti e sensibili a un audio di qualità, ma dove lo mettono? Dove mettono gli speaker? I adesso che è sparita la cornice. Sì, sparita la cornice, cioè, sono sempre più sottili, non c'è più spazio. Ci si sta inventando delle nuove soluzioni. Ricordiamo sempre che l'audio è una questione anche fisica. Cioè, soprattutto fisica. Quasi esclusivamente fisica, esatto. È pressione. Lo dico perché ci sono sempre quelli che dicono: ah, sono riusciti a fare un diffusore che è 3x3 e si sente benissimo. No, non si può sentire benissimo. Ma allora, ci sono degli stratagemmi tecnologici anche molto interessanti che si possono mettere in campo e che sono stati messi in campo. Innanzitutto abbiamo queste due tendenze: lo schermo e il TV non ha più cornice, oramai la cornice è quasi inesistente, quindi vuol dire che non ha superfici frontali per l'emissione del suono, perché nella cornice ci stavano anche gli speaker e adesso non ci sta più nulla. La seconda tendenza in atto è che gli schermi diventano sempre più grandi. Questo significa che se io ho un suono che non proviene dai pressi dello schermo, perché probabilmente arriverà da sotto, da dietro, eccetera eccetera, la incoerenza tra l'immagine ottica e l'immagine sonora diventa maggiore. Io vedo il personaggio in un punto dello spazio e sento il suono arrivare da tutt'altro punto, e quindi questo parla, ma ha una bocca, acusticamente parlando, larga 4 metri e alta 2, no? Quindi è chiaro che invece nella nostra bocca normalmente una sorgente audio puntiforme o giù di lì, quindi è chiaro che c'è una brutta coerenza, un'incoerenza tra immagine e suono. Che cosa si sta facendo? Allora, per esempio, Sony ha implementato il Surface Audio. Surface Audio, quindi audio di superficie. Che vuol dire solo sugli OLED, perché solo sugli OLED si può fare. Ha applicato degli attuatori allo schermo, dietro lo schermo, che di fatto utilizzano il vetro frontale del televisore come superficie radiante dell'audio. Ovviamente non è un cono in Kevlar che permette l'emissione di tutta la gamma di suoni, soltanto delle medio-alte frequenze, ma che sono le più direzionali, motivo per cui questo suono arriva forte e chiaro e esce dallo schermo, quindi si risolve il problema dell'incoerenza come di cui cinema, parlavo sì, prima, sì. Sì, come al cinema, dove magari non tutti lo sanno, lo diciamo che così andate a controllare la prossima volta che andate al cinema, gli schermi sono forati. Se voi vi avvicinate a uno schermo cinematografico che sembra bianco, è un telo di vinile forato. Perché è forato? Perché dietro lo schermo ci sono i diffusori, perché il suono deve arrivare proprio dallo schermo al cinema. Una parte del suono, poi parte, come abbiamo detto, ci sono quelli in sala, esatto. Certo, però i dialoghi, diciamo, la classica voce, arriva normalmente dallo schermo. E così può fare anche con questo stratagemma. E ci sono altri stratagemmi simili applicati anche sugli LCD. L'ha fatto Sony, di fatto, ancora con i propri LCD, applicando degli attuatori alla cornice dei prodotti, la cornice in metallo dei TV 8K, quel poco che c'è rimasto, però la cornice microvibra e emette un suono da tweeter, tant'è vero, quindi alte frequenze, tant'è vero che viene chiamato proprio un tweeter, che deve essere compendiato e compensato da altri speaker all'interno del TV, ma che ovviamente dà intanto una radiazione frontale. Sempre sulle frequenze che sono più importanti per la percezione del nostro sistema uditivo, quindi quelle più direzionali, e viene supportato da woofer e in alcuni casi anche subwoofer sul fronte cioè dal fronte basso o posteriore, ma quelle sono frequenze meno direzionali, quindi si cerca di supplire in questa maniera. Ma devo anche segnalare, per esempio, la tendenza: Samsung ha presentato a Las Vegas il Zero, che è questo prodotto di design, questo TV che ruota sulla sua base e si mette in verticale se sto guardando dei contenuti, per esempio sto facendo un mirror di contenuti dallo smartphone in verticale, in modo tale che posso ottimizzare lo schermo. Ormai sempre più i video generati dagli utenti sono girati in verticale, purtroppo, è un fatto, così, certo. Visti su un TV orizzontale sarebbero molto piccoli, visti su un TV in verticale diventano grandissimi e quindi li si può godere pienamente, ma dovendo fare un TV che ruota e quindi ha una base, perché deve avere lo spazio l'audio per ruotare, nella base diventa un super speaker e quindi si torna ad avere non più nella cornice ma in altri oggetti, per esempio in questo caso il supporto del TV, degli speaker finalmente all'altezza e questo è un bel ritorno. Questa tendenza di trovare soluzioni per diffondere l'audio senza la necessità di un vero e proprio diffuso, cioè di una vera e propria cassa, ho visto che ci sono stati degli esperimenti anche nelle automobili, cioè utilizzare le superfici dell'automobile con degli attuatori per diffondere audio un po' dappertutto. Quindi posso immaginare che nel futuro le automobili abbiano dei sistemi audio 360 e da tutte le parti mi arrivano, qua c'è una chitarra, là c'è una tastiera, eccetera eccetera. Può essere una soluzione o sono secondo te esperimenti che rimarranno tali? No, si fa già addirittura di aumentare queste superfici. Il problema resta nel fatto che comunque ci sono anche, per esempio, degli attuatori portatili che si appoggiano a un tavolo qualsiasi e fanno suonare il tavolo. Ci sono anche le cuffie che non hanno il diffusore, costruzione ossea, certo, però bisogna comunque entrare nell'ordine di idee che la gamma dinamica, la gamma proprio sonora, di frequenze espresse da questi sistemi non è completa e non è lineare, quindi ha sempre bisogno di essere incrociata con qualche altro speaker, magari più tradizionale, che si incarichi, per esempio, di aggiustare le medie frequenze laddove servono e aggiungere le basse frequenze. Ma è chiaro che in una portiera ci sta uno speaker, un woofer per esempio, che faccia questo lavoro, e il resto non metto altri speaker ma faccio suonare l'intero cruscotto, e lo faccio suonare con diversi trasduttori. Per esempio, noi abbiamo visto un TV un OLED nel display, nello stand, nelle salette di LG Display, un 88 pollici, che aveva 11 trasduttori dietro. Quindi, come dire, potenzialmente può gestire, c'era anzi una demo che lo faceva, 11 canali diversi sulla superficie dello schermo. Ci puoi mettere l'Atmos. Volendo, sì. E così via, e io potrei avere l'intero soffitto, dell'auto, che ha diversi trasduttori montati e quindi può gestire diversi canali. Ma io credo che ci sarà un mix di tutto ciò. Per esempio, si è visto qualche auto che ha alcuni speaker integrati nel sedile, quindi nel poggiatesta, in modo tale che di fatto una specie di effetto surround o comunque aggiuntivo rispetto all'audio emesso dai diffusori più frontali ce l'ha ogni spettatore nei propri speaker. Quindi è un mondo che andrà avanti a evolversi, la tecnologia aiuta, però come dicevi giustamente tu, è fisica, le leggi della fisica non cambiano negli anni, generalmente sono quelle, e quindi l'audio buono resta sempre generalmente fatto con sistemi un pochino più tradizionali. Fino alla prossima rivoluzione tecnologica saremo qui per raccontarla, spero. Grazie Gianfranco, a presto, buon lavoro e buon divertimento, ciao. Grazie mille. Anche per questa settimana abbiamo concluso, terminato il nostro tempo e anche gli argomenti a nostra disposizione. Torniamo la prossima settimana, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 è radio24.it. Lo ricordo in tutte le puntate, ma c'è chi mi scrive e dice: ma ho fatto fatica a trovare l'indirizzo di posta elettronica, ma sono un ascoltatore fedelissimo. E che cosa ascolti? Perché se tutte le volte lo dico, ma vabbè. Oppure potete scegliere Twitter, Facebook o LinkedIn. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie anche per la pubblicità che ci fate per diffondere non tanto 2024 in sé, ma quello che dicono i nostri esperti di tecnologia, che spero sia utile per le vostre riflessioni, per il vostro lavoro, per a volte cambiare lavoro. C'è anche chi nel corso di questi 20 anni di 2024 ha cambiato lavoro basandosi su quello che ha ascoltato a 2024, e questo fa sempre molto piacere. Ci risentiamo la prossima settimana.